la versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori, in questo venerdì 31 di gennaio del 2014. San Giovanni Bosco, io sono torinese, per me San Giovanni Bosco è un santo abbastanza importante, per così dire. Ma perché mi veniva in mente? Perché a volte, considerando quello che in questi giorni sta avvenendo nel Parlamento italiano, cioè questa piega che ha preso la politica italiana, così muscolare, insulti, viene voglia di dire che forse un po' di San Giovanni Bosco a volte farebbe bene anche ai deputati e agli uomini politici. San Giovanni Bosco sì, incentivava e stimolava i giovani, però li puniva pure, ecco, questa è l'idea di fondo. Comunque, gli ultimi sono che la Procura di Roma ha deciso di indagare, era obbligato dopo la denuncia delle parlamentari del PD, l'onorevole De Rosa, il 5 Stelle, il parlamentare che sicuramente molti di voi avranno sentito, visto o letto, che ieri ha dato a colleghe del PD delle praticanti sesso orale ai leader del loro partito e così via. Cioè, nobilissimo apprezzamento, credo che in realtà sia tempo perso, vedremo se il giudice la pensa diversamente. Io credo che la politica si dovrebbe occupare d'altro, con tutto che continuo a dire quel decreto Banca d'Italia annegato nella faccenda IMU era a mio giudizio anche invotabile, come hanno sostenuto coloro, 5 Stelle e altri, che si sono opposti. Mi dispiace solo che la piega che prende il colore impedisca poi di parlare delle cose concrete, perché oramai si parla solo di quello e non del contenuto di quel decreto e del come e del perché Banca d'Italia abbia deciso, con un ministro della Banca d'Italia del Tesoro, una operazione sul proprio patrimonio che non ha eguali in tutte le banche centrali del mondo, con un cospicuo dono alle banche private socie. Detto questo, andiamo al tema del giorno. Il tema del giorno è la banda larga, perché ieri Francesco Caio ha presentato il tanto atteso report che il governo gli aveva affidato sulle prospettive del raggiungimento degli obiettivi europei. Anche in Italia noi siamo molto indietro sulla copertura italiana della banda larga e ultralarga. Ieri lo ha consegnato, oggi la notizia è che Francesco Caio smette comunque il suo incarico, peraltro gratuito, chi sperava gli venissero affidati altri incarichi viene deluso. Oggi parliamo di quello che il suo report ha detto. Io dico subito, io sono rimasto un po' deluso, non mi sembra un apporto particolarmente significativo. Perché? Perché in realtà dice, se andiamo a fare la somma verificata degli impegni di investimento dei maggiori attori del mercato, cioè le telefoniche in buona sostanza, noi abbiamo una prospettiva sufficientemente incoraggiante per raggiungere entro il 2017 il 50% delle linee fisse con almeno 30 megabyte per secondo. Quanto poi a tutto il resto degli obiettivi europei, bisogna fare molto molto di più. Che cosa il molto molto di più? In realtà, ecco, su questo Caio è stato molto molto, secondo me, sfuggente. È ovvio che c'è un problema relativo innanzitutto a Telecom Italia, un problema societario, lo sapete bene, mentre stiamo andando in onda Fossati intervistato a una televisione sta dicendo che all'azienda manca un piano industriale capace di creare valore. C'è il sottostante, il problema riaperto di un eventuale spin-off e devoluzione al pubblico tramite Cassa Depositi e Prestiti della rete fissa di Telecom. Io sono sempre pensato che levare la rete a quell'azienda significa fare morire l'azienda, ma questa è la mia opinione, sono contrario a reimpossessamenti pubblici. Cosa diversa è invece creare un quadro per cui i privati, ciascuno per la propria mission, come operatore più fisso che mobile, solo mobile, fisso e mobile insieme, o per il cloud, investa, sia incentivato a investire, perché noi abbiamo bisogno, la mia opinione è questa, per la banda ultralarga di fibra. Io ho sempre pensato allo schema FTTH e non solo all'FTTCAP. Che cos'è l'FTTCAP? Quello che utilizza, che si ferma alla cabina invece che entrare nelle vostre case, quello basato sulla compressione del segnale, sul miglioramento della capacità di trasmissione della rete di rame. Ecco, io ho sempre pensato che fermarsi a quella rete di rame iperammortizzata sia stato un enorme problema, e il debito di Telecom in questi anni ha frenato tutti da assumere piani di incentivo per cui si possa andare a banda ultralarga. Ecco, questa è la mia brevissima opinione, ma sentiamo in questa prima parte della trasmissione l'opinione di Simone Bonannini. Simone Bonannini è l'amministratore delegato di Interroot. Interroot è una compagnia internazionale che, i cui soci hanno investito tantissimo sulla dorsale, la più estesa dorsale in fibra ottica dell'Europa, perché hanno steso oltre 60.000 km di fibra, quindi hanno speso 2 miliardi e mezzo di euro. E la domanda che faccio nel ringraziarlo di essere qui con noi, Simone Bonannini, ingegner Bonannini, è: lei che cosa si aspettava? Qualcosa di più? Avevo letto le sue interviste, mi sembrava di sì, oppure il rapporto Caio non l'ha delusa? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio Giannino, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Direi che la sintesi che lei ha appena fatto è, oserei dire, perfetta, e la condivido dalla prima all'ultima parola. Anch'io, leggendo peraltro ieri, perché appunto è stato presentato ieri il rapporto Caio, sono rimasto abbastanza sorpreso, soprattutto sulle conclusioni, o meglio, ritengo che sia un'ottima analisi, quindi un'ottima diagnosi, ma manca la cura. Vedo che mi sembra che l'ingegner Caio sia stato un po' timido sull'indicare quelli che potrebbero essere i passi necessari da farsi per poter raggiungere gli obiettivi del 2020 che l'Europa sostanzialmente richiede a tutti i paesi membri. L'ingegner Caio dice chiaramente che non raggiungeremo quegli obiettivi, dice chiaramente che non riusciremo ad avere il 50% della popolazione con i 100 megabit se procediamo con il livello degli investimenti che c'è attualmente, soprattutto con le soluzioni tecnologiche che in questo momento sono in campo. E quindi quello che lei prima diceva, cioè il fiber to the cabinet invece del fiber to the home, quindi la fibra che si ferma a un cabinet e poi gli ultimi metri in rame, anche secondo me non sono la soluzione ideale per questo paese. Poi, per carità, noi possiamo utilizzare, l'abbiamo fatto con le aste LTE, la parte ovviamente di potenziamento massimo per ciò che riguarda il mobile, per integrare l'ampliamento della banda, ma resta il fatto che la fibra non si batte, così o no? Ma assolutamente sì. Io, guardi, vorrei fare un ragionamento molto più semplice e leggermente diverso. Allora, innanzitutto mi viene spesso ogni giorno da chiedermi: ma gli obiettivi del 2020 sono dei reali obiettivi ambiziosi, sfidanti, così come sembrano? A mio avviso no, perché di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di portare 30 megabit a casa di un utente finale, a casa di un'azienda, quindi fino alla 30 megabit. Ma siamo davvero convinti che nel 2020 30 megabit saranno sufficienti? A mio avviso no. Per di più, tanto a dare un'idea di quanto anche la comunità europea abbia le idee chiare, e questo lo dice anche Caio nel suo rapporto, questi 30 megabit non è chiaro se la comunità europea li vuole simmetrici oppure no, cioè se li vuole solo in downstream oppure no. Nell'ipotesi che Caio fa in questo rapporto, dice: beh, assumiamo che ce li chiedano in downstream, e già questo dà un'idea di quello che sia la chiarezza di chi poi fa le regole o chiede degli impegni centralmente in Europa. Torno all'affermazione iniziale: per me non è un obiettivo sfidante. Quando si parla di infrastrutture, ogni paese, e soprattutto in Italia, dovremmo fare quello che abbiamo fatto molti anni fa, cioè pensare con un po' più coraggio e pensare a 30 o a 40 anni, perché appunto stiamo parlando di infrastrutture. E se qualcuno pensa che tra 15, 20, per non dire i 30 o i 40 anni il rame possa ancora bastare, secondo me significa che non ha capito niente. Quello che serve, e probabilmente in meno di 10 anni, è decisamente la fibra a casa di ognuno di noi, ma soprattutto a ciascuna delle nostre aziende, per renderle di nuovo più competitive, per potergli consentire di poter fare il loro mestiere in un quadro internazionale che ogni giorno è sempre più complesso. Ora, conoscendo il tessuto imprenditoriale italiano, estremamente distribuito su tutto il territorio, va da sé che nel momento in cui decido di iniziare un'operazione di cablaggio estensiva almeno sul tessuto imprenditoriale, probabilmente con un investimento aggiuntivo non estremamente importante, posso a quel punto raggiungere anche l'abitazione. Quindi, a mio avviso, dovremmo iniziare ad avere un po' più di coraggio, a fare qualche passo in più verso quello che è verso quello che sarà il futuro. E soprattutto posso chiedere un'opinione su questo, ingegnere Bonannini. Io non capisco una cosa: per quale motivo tutti coloro che sostengono, ci vuole un'accelerazione pubblica, certo ci vuole sulla pubblica amministrazione per generare un'offerta di servizi digitali e così via, ma quelli che dicono utilizziamo il denaro di CDP, il denaro pubblico, per prenderci la rete Telecom perché bisogna accelerare, come sta dicendo lei, non capisco perché spendere denaro pubblico per prendere una rete iperammortizzata in rame e prendere in più pezzi di debito di Telecom Italia appiccicata a quella, quando invece il problema dal punto di vista dello sviluppo tecnologico è fibra e non riprendersi rete in RAM. È sbagliato il mio ragionamento, secondo lei? Il suo ragionamento è perfettamente corretto e lo condivido. Infatti a me non appassiona più neanche il tema scorporo sì, scorporo no della rete di Telecom Italia. Allora, io ho un'idea tutta mia che sembra un po' socialista, ma nella realtà non lo è. Io sono liberale, poi lei da un punto di vista economico è decisamente più preparato di me, magari mi dirà che dico delle sciocchezze. No, figura, ma dica. Per quanto mi riguarda, allora, esistono determinati tipi di infrastrutture e la rete di telecomunicazione è una di queste, che dovrebbero essere passive ed interamente pubbliche perché indivisibili e non replicabili. Dopodiché gli operatori di telecomunicazioni dovrebbero farsi la concorrenza sui servizi andando ad affittare quell'infrastruttura a parità di condizioni tecniche ed economiche. Questo per me è il modello che deve essere messo in campo. Faccio un esempio simile. Non è che le strade, l'autostrada da Milano a Roma, ne esistono tre parallele perché Milano-Roma è una tratta conveniente. Di strade ce n'è una sola e poi viene utilizzata dagli automobilisti che vogliono fare turismo, viene utilizzata dagli autotrasportatori che devono fare il loro business di trasporto, dagli autobus. Chiarissimo, Ingegner Bonannini ci ha introdotto in un tema che è un po' dolente, perché è il tema quando c'è un'infrastruttura fisica non replicabile. Già sulla non replicabilità ci si divide, ma il problema è la differenza tra concorrenza nel mercato e per il mercato. E comunque io intanto ringrazio l'ingegner Simone Bonannini, è stato molto chiaro, un deluso anche lui, un po' come me, ma a maggior ragione, visto quello che fa con Interroot, del rapporto Caio di ieri. La versione di Oscar. Eccoci qua, tornati in diretta dagli studi Radio 24 di Milano. Ci occupiamo oggi di capire meglio ciò che nella parte finale del rapporto di Caio di ieri, affidatogli dal governo all'ingegner Francesco Caio, su cosa fare sul punto della situazione sulla banda larga, col primo ospite, l'ingegner Simone Bonannini, abbiamo visto, insomma, un po' deludente, perché abbiamo semplicemente capito che per i 100 megabit secondo non bastano gli investimenti dei privati. Su cosa fare per il pubblico, Caio ha volato alto, ha detto di questo ve ne occupate voi. Io sono rimasto un po' deluso. Ci sono alcuni sms di nostri ascoltatori che ci fanno capire, poi dice, ma non è che state esagerando, visto che in Italia, come è noto, poi abbiamo anche meno domanda per una larghezza di banda così ampia. C'è un nostro ascoltatore che dice, Giordano, che dice: io vivo a 5 km dalla via Emilia, nella provincia di Reggio Emilia, non credo di stare in una parte geograficamente o orograficamente più complicata, a casa mia non arriva la DSL, mi accontenterei e come di 30 megabit secondo. Allora vediamo un secondo come invece ha giudicato il rapporto Caio. Qui sarà un'opinione più istituzionale, immagino, il presidente di Confindustria Digitale, Stefano Parisi, che è con noi e grazie di essere con noi oggi pomeriggio. Buonasera, grazie a voi dell'invito. Allora, che pensa di questo rapporto Caio, che dice non ci siamo per i 100, però insomma dite voi come fare. Guardi, Confindustria Digitale rappresenta anche le aziende di telecomunicazioni, cioè coloro che fanno gli investimenti, e siamo stati noi a sollecitare un rapporto, cioè una fotografia di quello che nei piani industriali delle aziende c'è in vista degli obiettivi dell'agenda digitale. L'abbiamo voluto perché, per vari motivi. Uno, perché è giusto che sia chiaro a tutti quanto manca e cosa bisogna fare. E due, perché eravamo in una fase in cui nel Paese si discuteva di una legge sull'OPA, di separazione della rete, cioè di strumenti veramente poco di mercato per raggiungere gli obiettivi che invece devono essere raggiunti. Quindi abbiamo detto: fermiamoci tutti, vediamo come stanno le cose e cerchiamo di capire perché. Allora, effettivamente la novità rispetto al passato è che ci sono dei piani industriali che stanno sviluppando stanno sviluppando la banda ultralarga in alcune aree del paese, ricordo che solo 3 anni fa soltanto un'azienda faceva questo, investimenti in fibra, mentre invece adesso anche Telecom Italia sta facendo, ha un piano di sviluppo degli investimenti. Quell'azienda era Fastweb. Questo è un dato sicuramente positivo. Poi stiamo vedendo che non è sufficiente rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'Europa 2020, che dice che il 30 megabit deve raggiungere il 100% degli italiani. Non sono d'accordo con quelli che dicono ma forse è un obiettivo eccessivo. No, perché non dobbiamo guardare a come usiamo la rete oggi, ma il trend di crescita nell'uso del traffico, di aumento del traffico nell'uso della rete, specie per il video streaming, cioè per l'uso della rete per vedere la televisione, sta crescendo in maniera esponenziale. E quindi ci sarà, forse probabilmente non sarà sufficiente avere i 30 mega nel 2020. Pensate che il 2020 è fra 4 anni, 6 anni fa non esisteva l'iPhone, cioè la velocità con la quale si sviluppa la tecnologia digitale non la immaginiamo neanche, cosa succederà e che mondo avremo nel 2020. Ma per lei quei 30 megabit sono solo in download o download e upload, che insomma è una larghezza di banda un po' diversa, essere completamente... Guardi, la fibra, sì, è vero. La fibra in casa è simmetrica, quindi quello che è i 100 mega che oggi vengono dati per l'FTTH, cioè la fibra che arriva fino a casa, dà la simmetria, 100 in download, 100 in upload. Questo è diverso nella tecnologia che si sta sviluppando adesso. Il download è molto più importante perché ovviamente la gran parte del traffico va verso il cliente finale, però sicuramente fra 20 anni avremo la fibra ovunque, quindi avremo una simmetria che probabilmente ci darà un giga altro che 100 mega. Quindi, per invogliare le piccole imprese italiane, il problema è dell'upload è molto importante, perché lì è veramente è la struttura che genera la domanda di mercato. Ma infatti io penso personalmente che nelle aree industriali, nei distretti industriali, dove purtroppo c'è un gravissimo problema oggi di digital divide, dovremmo pensare alla fibra che arrivi direttamente nelle aziende, perché lì serve sì la simmetria per i motivi che lei diceva. Ora però, dunque, io credo che dobbiamo però vedere questo tema nell'ambito del più vasto tema dell'agenda digitale. Oggi in Italia abbiamo il 53% delle famiglie italiane che hanno un collegamento internet, il 47% che non ce l'ha. Siamo tra gli ultimi paesi. Allora noi stiamo chiedendo a queste aziende di telecomunicazione, non è che le aziende di telecomunicazioni fanno pochi investimenti perché non hanno voglia, ma fanno questi investimenti di cui sono certi della redditività, del ritorno dell'investimento. Oggi purtroppo i ricavi dell'azienda di telecomunicazione, grazie a una fortissima concorrenza di cui il paese ha beneficiato, i prezzi scendono in modo drammatico e i ricavi scendono ugualmente, con un trend invece di aumento del traffico e di uso della rete altissimo. Quindi se lei vede oggi i prezzi con i quali le aziende che offrono i servizi in fibra 100 mega sono molto simili al prezzo dei 2 mega che si dà con la DSL. Cioè non stiamo dando valore a questa offerta e il mercato è un mercato che frena dal punto di vista della sua crescita. Allora noi perché abbiamo sempre spinto sull'agenda digitale? Addirittura abbiamo costituito Confindustria Digitale, cioè per mettere insieme reti e servizi, perché soltanto con una trasformazione della pubblica amministrazione sul digitale rende indispensabile per tutte le famiglie italiane utilizzare internet e quindi si può riprendere un percorso di crescita che può portare di nuovo le aziende di telecomunicazioni ad avere quei vantaggi e quei margini per poter fare il resto degli investimenti che da qui al 2020 mancano. Senta, la interrompo per chiedere un giudizio. L'Espresso, che è in uscita, fa il punto dei provvedimenti annunciati per l'agenda digitale dai governi, non solo questo ma anche dal precedente, 55 provvedimenti, solo 5 in realtà approvati davvero, per tutto il potenziamento dei servizi digitalizzati, cioè per spingere la gente a quel punto ancora di più ad avere l'interlocuzione diretta con tutta una serie crescente di atti della pubblica amministrazione, tutta per via digitale. Però 5 su 55 a Parisi. Ma guardi, oggi finalmente la Corte dei Conti ha dato l'ok allo statuto dell'agenzia digitale, oggi agenzia digitale che è stata costituita 14-15 mesi fa. 15 mesi per fare uno statuto, capisce? Cioè stiamo parlando di una cosa. Per questo io dico, guardi, io sono contento che Caio abbia fatto quel rapporto e penso però che quel rapporto manchi di un pezzo, cioè manchi della visione di insieme. Caio sta facendo un bel lavoro anche sull'agenzia, sull'agenda digitale, con i suoi tre priorità, eccetera. Quello che manca però è di capire che è inutile scaricarsi le colpe tra pubblico e privato, le aziende fanno gli investimenti, non le fanno, scorporiamo la rete, non scorporiamo la rete, facciamo la legge sull'OPA, non facciamo la legge sull'OPA. Cerchiamo di capire che esiste una grandissima opportunità per tutti, che è quello di portare questo paese verso internet. Portare questo paese verso internet vuol dire aumentare la produttività, ridurre i costi della pubblica amministrazione, migliorare la sua efficienza e consentire, dare i margini alle imprese per fare gli investimenti. È un circolo virtuoso nel quale tutti quanti dobbiamo far parte. Io mi auguro davvero, e devo fermare a questo punto, abbiamo avuto troppo rapidamente Stefano Parisi, presidente di Confindustria Digitale. Quello che vedo io nei governi è che c'è una lentezza, la burocrazia su questo ci farà perdere un mucchio di tempo. Io non credo che sia dietro l'angolo questo balzo in avanti di cui avremmo totalmente bisogno, e mi auguro che non sia mettere denaro pubblico per rilevare la rete in rama di Telecom Italia e pezzi di debito di Telecom Italia, considerando quella la priorità, ed è invece una strada a cui molti continuano a pensare in politica. Continueremo a pensare, a parlare comunque di questo argomento, la digitalizzazione di cui abbiamo bisogno. Mi scusi Alessandro Macerata e Carlo da Roma, perché ohimè i due ospiti ci hanno fatto esaurire troppo rapidamente il tempo. Continuate su Radio 24, appuntamento con me per lunedì.